Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, presentato a Salone Nautico, appena conclusosi a Genova, ha riscosso molta curiosità. Si chiama Lampuga Rescue e sta per essere introdotto a breve, insomma, anche in Italia. Parliamo di una specie di tavola da surf motorizzata pensata per i salvataggi in mare. Ci spiega tutto Simone Fiaschi, che è partner di Lampuga. Buonasera, buonasera Fiaschi. Buonasera. Allora, che cos'è intanto? Descriviamo questo oggetto, è un surf, abbiamo detto. Sì, che caratteristiche ha? È una tavola da surf motorizzata, per il 70% costruita in gomma, quindi nel materiale del gommone, per intendersi, del canotto per capire, con un idrogetto, quindi a propulsione zero, alimentato a batteria elettrica, quindi perfetto. Senza elica, è un motore a idrogetto. Benissimo. Ha di particolarità i 12 lacci posti sull'estremità di questa tavola, in modo tale da poter appunto prendere la persona e agganciarla per poi ritirarla in mare. Ecco, perché diciamo che queste tavole si stanno cominciando a diffondere come oggetto sportivo, no? Tanto sono velocissime. Che velocità fa questa tavola? Questa tavola raggiunge 50 km orari, quindi si parla di 32 nodi. Che sono tanti sull'acqua, è una velocità notevole sull'acqua. E vengono usati anche per attività sportive. Lei parlava di questi legacci, sono le differenze tra la tavola sportiva e questa che invece è pensata per i salvataggi. Sì, in pratica. Poi chiaramente, essendo una tavola da sostegno per due persone, è un pochino più lunga, si parla di 2,80 m e larga di certo. 80 cm, per dare maggiore stabilità alla persona che poi viene caricata sopra. Perfetto. Ma diciamo la differenza poi sostanziale che fa questo oggetto è la velocità. È la velocità e la praticità. Nel momento in cui dalla riva si sente o si avvisa la persona in pericolo, questa tavola è leggerissima, 32 kg, si parla di 32 kg sotto la spalla, un attimo di metterla in mare e partire, velocissimo. Ecco, e diciamo uno degli aspetti, se ho capito bene, l'ingombro che è ridotto. Cioè, penso a certe situazioni dove non si riesce neanche a entrare in acqua per fare il bagno. Esatto, esattamente. Poi una volta che comunque siamo arrivati a destinazione, non si rischia battere contro la persona e farli male, questo si parla di gomma, anche se comunque poi ci saranno, penso, destinati anche dei corsi, dei brevetti e poi tutto quello che sarà poi dopo. Noi abbiamo pensato a questo oggetto, l'abbiamo prodotto e lo abbiamo lanciato a zona di Genova, in Italia. Poi in realtà questo prodotto è già stato visto, è già stato presentato e funzionale. Cioè ci sono già delle esperienze di utilizzo di questi surf motorizzati per i salvataggi? Sì, oltreoceano noi abbiamo già venduto e abbiamo già fatto, sono già state usate per questo scopo. Esattamente, sì. Va bene, grazie allora Simone Fiaschi, in bocca al lupo. Grazie a lei, grazie a voi e a presto. Ebbene, sempre in tema di salvataggi in mare, tra le novità non ci sono solo i surf a motore, ma anche i sempre più ubiqui droni. Ascoltate qui. Ora, nel momento de que cualquier socorrista nos avisa o nos alerta de una incidencia, a la vez que sale el socorrista, automáticamente el dron se eleva y va al punto de esa incidencia o de esa emergencia. A partir de ahí ya valoramos, sabemos realmente desde el minuto uno qué es lo que tenemos. Y de ahí fue un poco toda la idea de decir, oye, es un buen proyecto, me parece una buena idea y vamos a echarlo para adelante. La voce che avete sentito è quella di Vicente Luna, responsabile del servizio di protezione civile di Cunit, una località turistica sulla costa spagnola non lontana da Barcellona, che ha abbracciato ufficialmente l'uso dei droni per i salvataggi in mare. Come avete sentito, Luna spiega che nel momento in cui c'è un'emergenza, un drone parte alla massima velocità diretto verso la persona in pericolo. Una volta raggiunto il punto dell'emergenza, come si vede anche nelle immagini che descrivono questa sperimentazione, il drone lascia cadere sul malcapitato un salvagente e poi rimane lì sulla verticale, consentendo così ai soccorsi che nel frattempo sono partiti di sapere esattamente che situazione troveranno al loro arrivo. Quello di Cunit non è l'unico caso, per la verità, in cui si sta valutando l'uso di droni da salvataggio. Ci sono sperimentazioni in corso negli USA, in Iran e anche in altri paesi, tra cui la stessa Italia, dove già 2 anni fa Roberto Santini, proprietario di un bagno di Forte dei Marmi, aveva sviluppato la stessa idea, aveva attrezzato attrezzato un drone con un salvagente e anche un altoparlante per comunicare con le persone in difficoltà. Ma complice per la verità anche la vicinanza in aeroporto, insomma, ha sbattuto contro la burocrazia italiana, che evidentemente è un po' più rigida su queste cose di quella spagnola. Va bene, ci fermiamo qui per questa sera, è tutto, buon fine settimana, appuntamento a lunedì.